Mr. Gibson aveva impartito uno o due dei suoi ordini secchi e imperativi e la moglie si sentiva piuttosto sola, senza nessuna delle sue due ragazze care in casa, come ripeteva a se stessa e anche alle altre persone. Oh, mia dolce Molly, questo è un piacere inaspettato. Solo questa mattina ho detto a papà: quando pensate che riavremo a casa la nostra Molly? Lui non ha risposto granché, non lo fa mai, lo sai. Ma sono sicura che ha pensato subito a farmi questa sorpresa, a darmi questa gioia. Hai un aspetto un po', come dire, ricordo un verso così bello: definitela chiara, non pallida. Così diremo che sei chiara. Faresti meglio a non definirla per niente e a lasciarla andare nella sua stanza, così che possa riposare il prima possibile. Non hai un paio di stupidi romanzi qui in casa? Sarebbero la lettura giusta per farla dormire. Egli non la lasciò finché Molly non si stese su un divano in una stanza ombrosa, con in mano un libro con cui fingere di leggere. Poi se ne andò, portando via la moglie, che sulla porta si era voltata verso la ragazza per mandarle un bacio sulla punta delle dita e che atteggiava il viso a una sorta di rifiuto a essere trascinata via. Ora, Hyacinth, le disse, portando la moglie in salotto, lei avrà bisogno di molte cure. È sopraffatto dalla fatica e io sono stato uno stupido, ecco tutto. Dobbiamo impedirle qualsiasi pensiero e qualunque preoccupazione, ma non garantisco che questo non la farà ammalare. Poverina, sembra proprio esausta. È un po' come me. I suoi sentimenti sono eccessivi per lei. Ma ora che è tornata a casa, ci troverà il più possibile allegri. A me ci penso io. Ma voi dovete dare un po' di vita a quel vostro viso afflitto, mio caro. Non c'è niente di peggio per chi non sta bene dell'espressione depressa in coloro che lo circondano. Ho ricevuto una lettera così piacevole da Cinzia oggi. Lo zio Kirkpatrick sembra davvero tenere molto a lei. La tratta proprio come una figlia. Le ha regalato un biglietto per i concerti di musica antica e Mr. Henderson le ha fatto visita, nonostante tutto ciò che è accaduto. Per un istante Mr. Gibson pensò che fosse facile per sua moglie essere allegra, date le prospettive piacevoli e l'evidente speranza che aveva in mente. Ma per lui era un po' più difficile liberarsi della propria espressione dolente, mentre la sua stessa figlia si trovava in uno stato di sofferenza e di debilitazione che avrebbe potuto anticipare una malattia ancora più grave. Egli però restava sempre un uomo che passava subito all'azione non appena presa una decisione, e sapeva che uno deve star di guardia mentre l'altro dorme. Così va avanti il mondo. Molly fu colpita dalla malattia che suo padre temeva. Non accadde con violenza né con gravità, tanto che non c'era da temere un pericolo immediato. Ma quella condizione incise notevolmente sulle sue forze, che sembrarono diminuire di giorno in giorno, al punto che il dottore temette che la figlia sarebbe rimasta un'invalida per sempre. Non c'era nulla di definitivo o di molto allarmante da riferire a Cinzia, e Mrs. Gibson, nelle sue lettere, evitò di presentarle il lato più oscuro della situazione. Molly sentiva la primavera, oppure durante la sua permanenza a Hamley Hall, Molly si è molto affaticata e si sta riposando. Queste brevi frasi non rivelavano nulla delle reali condizioni della ragazza. E poi, come Mrs. Gibson ripeteva a se stessa, sarebbe stato un peccato disturbare i divertimenti di Cinzia parlandole a lungo di Molly. Per la verità non c'era molto da dire, ogni giorno era così uguale all'altro. Ma accadde che Lady Harriet, che veniva ogni volta che poteva a fare un po' di compagnia a Molly, prima contro la volontà di Mrs. Gibson e poi con il suo pieno consenso per ragioni tutte sue, scrisse una lettera a Cinzia sotto l'insistenza di Mrs. Gibson. Il tutto avvenne in questo modo. Un giorno, sedendo in salotto per qualche minuto dopo essere stata insieme a Molly, Lady Harriet disse: "Davvero, Claire? Trascorro così tanto tempo a casa vostra che ho intenzione di lasciar qui un cestino da lavoro. Mary mi ha contagiata con la sua ragguardevolezza e voglio fare per la mamma un posapiedi. Sarà una sorpresa. E se ci lavorerò qui, lei non ne saprà niente. Solo che in questa cara piccola città non riesco a trovare le perle dorate che desidero per le viole del pensiero. E Hollingford, che mi spedirebbe qui stelle e pianeti se glielo chiedessi, non ho dubbi, non sarebbe in grado di accostare le perle più che... Mia cara Lady Harriet, vi state dimenticando di Cinzia? Pensate a come sarà contenta di fare qualcosa per voi. Davvero? Allora avrà molto da fare. Ma ricordate, siete voi che avete offerto la sua disponibilità. Mi prenderà anche della lana, come sono generosa ad accordare tanta bontà al mio prossimo. Ma seriamente, Credete che potrei scriverle e assegnarle qualche commissione? Né Agnes né Mary sono in città. Sono certa che ne sarà deliziata, assicurò Mrs. Gibson, che prendeva anche in considerazione il riflesso di onore aristocratico che sarebbe rifulso su Cinzia, ricevendo una lettera da una certa Lady Harriet a casa di Mr. Kirkpatrick. Così fornì l'indirizzo e Lady Harriet scrisse. Tutta la prima parte della lettera fu occupata da scuse e da commissioni, ma poi, senza dubitare minimamente che Cinzia non fosse al corrente delle condizioni di Molly, ella proseguì. Ho visto Molly stamattina. Per due volte mi è stato impedito di entrare, perché stava troppo male per vedere qualcuno al di fuori della famiglia. Vorrei che potessimo iniziare a scorgere un miglioramento, ma ogni volta lei sembra soffrire di più, e temo che Mr. Gibson lo consideri un caso molto preoccupante. 2 giorni dopo che questa missiva fu spedita, Cinzia entrava nel salotto di casa, con la stessa apparente compostezza che avrebbe dimostrato se l'avesse lasciato un'ora prima. Mrs. Gibson dormicchiava, ma era convinta di star leggendo. Aveva trascorso con Molly la maggior parte della mattinata e ora, dopo aver pranzato e dopo che la malata aveva consumato una sorta di cena anticipata, si considerava in diritto di riposare un po'. Sobbalzò quando Cinzia fece il suo ingresso. Cinzia, cara figliola, da dove arrivi? Perché mai sei venuta? I miei poveri nervi, il mio cuore è tutto palpitazioni, ma di certo non c'è da meravigliarsi con tutta l'ansia che devo sopportare. Perché sei tornata? Per via dell'ansia di cui parli tu, mamma. Non sapevo. Non mi hai mai detto quanto Molly stesse male. Sciocchezze. Chiedo scusa, mia cara, ma sono proprio sciocchezze. La malattia di Molly è solo nervosa, lo dice Mr. Gibson. Una febbre nervosa. Ma tu devi ricordare che i nervi sono una mera fantasia e lei sta migliorando. È un tale peccato che tu abbia lasciato la casa di tuo zio. Che ti ha raccontato di Molly? Lady Harriet mi ha scritto a proposito di certa Lana. Lo so, ma avreste dovuto sapere che lei esagera sempre le cose. Non che io non mi sia esaurita a furia di fare assistenza. Forse dopo tutto è un bene che tu sia venuta, mia cara, e ora scenderai in sala da pranzo a mangiare qualcosa e mi racconterai tutte le novità di Hyde Park Street, nella mia stanza. Non andare ancora nella tua. Molly è così sensibile ai rumori. Mentre Cinzia pranzava, Mrs. Gibson continuò a chiederle: E la zia? Come va il suo raffreddore? E Ellen si è rimessa del tutto. Margaretta è bella come sempre. I ragazzi sono a Horro, immagino, il mio preferito di una volta, Mr. Henderson. Non riuscì a infilare quest'ultima domanda con naturalezza, suo malgrado il suo tono era cambiato e aveva un accento di impazienza. Cinzia non rispose subito, si versò ancora un po' d'acqua con estrema ponderatezza e poi rispose: La zia sta bene, Ellen è più forte che mai e Margaretta è molto bella. I ragazzi sono a Horro. E per finire, Mr. Henderson gode della sua usuale salute perché oggi era previsto che cenasse dallo zio. Fai attenzione, Cinzia. Guarda come sta tagliando quella crostata di uva spina, la rimproverò aspramente Mrs. Gibson. Il suo fastidio non era causato da quel gesto di Cinzia, anche se questo le aveva dato un modo di sfogare il suo malumore. Non riesco a capire come tu possa essere venuta su così sventata. Sono certa che lo zio e la zia si saranno molto irritati. Direi che non ti inviteranno più. Al contrario, tornerò da loro non appena sarò nelle condizioni di lasciare Molly. Nelle condizioni di lasciare Molly? Ora, questa è veramente un'assurdità e piuttosto offensiva nei miei riguardi, devo dire. Con tutto quello che ho fatto per assisterla ogni giorno e quasi ogni notte. Infatti mi sono svegliata innumerevoli volte perché Mr. Gibson si alzava per andare a controllare che avesse preso correttamente la sua medicina. Temo che sia stata molto male, disse Cinzia. Sì, in un certo senso, ma no, in un altro. È quella che io definisco una malattia tediosa piuttosto che interessante. Non c'era un pericolo immediato, ma di giorno in giorno le sue condizioni erano immutate. Vorrei averlo saputo, sospirò Cinzia. Pensi che ora possa andare a vederla? Vado a prepararla. La troverai molto meglio di quanto sia stata. Ah, ecco Mr. Gibson. L'uomo entrò in sala da pranzo, dove aveva sentito delle voci. Cinzia pensò che apparisse molto invecchiato. Tu qui? Disse lui, tacendosi avanti per stringere la mano. Ma come sei venuta? Con l'Empire. Non sapevo che Molly stesse tanto male, altrimenti sarei venuta subito. I suoi occhi erano colmi di lacrime. Mr. Gibson ne fu commosso. Le strinse di nuovo la mano e mormorò: Sei una brava ragazza, Cinzia. Ha sentito uno dei resoconti esagerati di Lady Harriet, spiegò Mrs. Gibson, ed è partita immediatamente. Le ho detto che è stata molto sciocca perché, insomma, Molly ora sta molto meglio. Molto sciocca, ripeté Mr. Gibson, riprendendo le parole della moglie ma sorridendo a Cinzia. A volte però le persone sciocche ci piacciono per la loro stoltezza, più di quanto le persone intelligenti ci piacciono per la loro saggezza. Temo che la stoltezza mi dia sempre fastidio, commentò sua moglie. Comunque Cinzia è qui, e quel che è fatto. Molto vero, mia cara. E ora corro di sopra a vedere la mia piccola e a riferirle la bella notizia. E aggiunse rivolto a Cinzia. Meglio se mi segui tra un paio di minuti. La gioia di Molly nel vederla si dimostrò dapprima in poche felici lacrime e poi in dolci carezze ed espressioni inarticolate d'affetto. Una o due volte cominciò a dire: È così bello! E poi si interruppe. Ma l'intensità di queste tre parole colpì profondamente il cuore di Cinzia. Era tornata proprio al momento giusto, quando Molly aveva bisogno dello stimolo gentile dato dalla compagnia di una persona nuova, però familiare. La sensibile Cinzia sapeva essere loquace e silenziosa, garrula o seria, a seconda di ciò che l'umore di Molly richiedeva. Ella ascoltava anche, con apparente se non reale instancabile interesse, i continui e ricorrenti riferimenti di Molly al periodo di dolore e di sofferenza a Hamley Hall e alle scene che erano rimaste profondamente impresse nella sua natura suscettibile. Cinzia sapeva per istinto che la ripetizione di questi angosciosi ricordi avrebbe alleviato la memoria oppressa, che si rifiutava di indulgere su qualsiasi cosa non fosse ciò che era avvenuto in un periodo di febbrile disturbo di salute. Così ella non interrompeva mai Molly, come Mrs. Gibson aveva fatto tanto di frequente, dicendo: Me l'hai già raccontato, cara, parliamo d'altro. Oppure: Non posso davvero permetterti di soffermarti continuamente su questi pensieri dolorosi. Tenta di essere un po' più allegra. La giovinezza è gaiezza. Tu sei giovane e perciò devi essere gaia. Questa è una celebre frase della retorica. Adesso non mi ricordo come si chiama. Così la salute e lo spirito di Molly si risollevarono rapidamente dopo il ritorno di Cinzia, e benché fosse probabile che mantenesse molte delle sue abitudini da inferma nel corso dell'estate, fu nelle condizioni di fare dei tratti in carrozza e godersi il bel tempo. Era solo il suo umore ancora sensibile ad aver bisogno di qualche trattamento. Tutti a Hollingford dimenticarono di averla mai considerata altrimenti che la beniamina del villaggio, e ciascuno a proprio modo dimostrò un cortese interesse nei confronti della figlia di suo padre. Miss Browning e Miss Phoebe ritennero un privilegio l'essere ammesse a vederla una quindicina di giorni o 3 settimane prima di chiunque altro. Mrs. Goodenough, con gli occhiali sul naso, mescolò raffinate le cornie in una pentola d'argento per il bene di Molly. Dalle torri arrivarono libri e frutta coltivata, nuove caricature e pollame delicato e particolare. Alcuni umili pazienti del dottore, come Mr. Gibson veniva usualmente chiamato, gli lasciarono i primi cavolfiori che riuscirono a raccogliere negli orti dei loro cottage, con i loro rispetti per la signorina. E ultimo fra tutti, benché dall'effetto più forte e dall'interesse più pietosamente acceso, venne lo Squire Hamley in persona. Quando Molly stava affrontando la crisi peggiore, egli era corso lì tutti i giorni per conoscere il minimo dettaglio, affrontando persino Mrs. Gibson, un abominio per lui, se il marito non era in casa, per chiedere e ascoltare, e chiedere e ascoltare, fino a che le lacrime gli scendevano inconsapevolmente lungo le guance. Qualunque risorsa il suo cuore, la sua casa o le sue terre potessero offrire, fu ricercata e tentata affinché potesse portare alla ragazza un momento di gioia. E qualsiasi cosa arrivasse da lui, anche nel momento peggiore della malattia, aveva sempre risvegliato sul volto di Molly un pallido sorriso. Capitolo 55. Il ritorno di un innamorato assente. E ormai era la fine di giugno, e Cinzia, cedendo allo spingere estremamente insistente di Molly di suo padre e al tirare persistente e affettuoso di Mr. e Mrs. Kirkpatrick, era tornata a Londra per concludere la sua visita sospesa, ma non prima che i commenti sul suo improvviso ritorno per accudire Molly si fossero schierati fortemente dalla sua parte nell'opinione incostante della piccola città. La sua storia con Mr. Preston era finita nell'ombra, tutti parlavano solo del suo buon cuore. Nel riflesso della guarigione di Molly, tutto assumeva una tinta rosata, come in effetti si addiceva alla stagione in cui le rose vere erano al culmine della fioritura. Una mattina Mrs. Gibson portò a Molly un grande canestro di fiori che le erano stati mandati da Hamley Hall. Molly faceva ancora colazione a letto, ma era appena scesa e ora stava abbastanza bene da sistemare i fiori in salotto. E mentre così faceva, con quelli appena ricevuti, esprimeva un'osservazione su ognuno di loro. Ah, questi garofani bianchi erano i preferiti di Mrs. Hamley, le assomigliano tanto. E questo rametto di eglantina profuma quasi tutta la stanza. Mi appunto le dita, ma non importa. Oh mamma, guardate questa rosa. Non mi ricordo il suo nome, ma è molto rara e cresce in un angolo ombroso contro il muro, vicino al gelso. Roger comprò l'albero per sua madre con i propri soldi, quando era solo un ragazzino. Me lo mostrò e me lo fece notare. Direi che è stato Roger a coglierla. Hai sentito papà che diceva di averlo incontrato ieri? No! Roger! Roger a casa! Esclamò Molly facendosi tutta rossa e poi molto pallida. Sì, oh, ricordo, si è andata a letto prima che papà rientrasse ed è stato convocato presto da quella noiosa Mrs. Bill. Sì, Roger si è presentato a Hamley Hall l'altro ieri. Ma Molly si lasciò andare sulla sedia, troppo debole per occuparsi oltre dei fiori. Era sconvolta per l'improvvisa notizia. Roger è tornato. Accadde che quel giorno Mr. Gibson fu particolarmente occupato e non rincasò fino al tardo pomeriggio. Molly rimase in salotto per tutto il tempo. Non andò neppure a fare il suo solito riposino, tanto era ansiosa di sapere tutto del ritorno di Roger, che tuttavia le sembrava ancora incredibile. Ma in realtà era del tutto naturale. La lunga monotonia della sua malattia le aveva fatto perdere il senso del tempo. Quando Roger aveva lasciato l'Inghilterra, la sua idea era di costeggiare l'Africa sul versante orientale fino a raggiungere il Capo, e da lì di continuare il viaggio per terra o per mare, nella misura che gli sembrasse più opportuna per perseguire i suoi scopi scientifici. Di recente tutte le lettere gli erano state spedite a Città del Capo, e lì, 2 mesi innanzi, egli aveva ricevuto la notizia della morte di Osborne, nonché la frettolosa lettera in cui Cinzia rompeva il fidanzamento. Non pensò di sbagliare nel ritornare immediatamente in Inghilterra e nel presentarsi ai gentiluomini che l'avevano fatto patire con una spiegazione dettagliata delle circostanze relative al matrimonio segreto e alla morte improvvisa di Osborne. Si offrì ed essi accettarono la sua offerta di ripartire di nuovo per il periodo di tempo che essi ritenessero equivalente ai 5 mesi che gli mancavano per concludere il suo impegno con loro. Per la maggior parte, quei gentiluomini erano proprietari terrieri e comprendevano quanto fosse importante dimostrare la regolarità del matrimonio di un primogenito e far sì che suo figlio venisse nominato erede legittimo di una dinastia di antica stirpe. Queste, riportate molto più sinteticamente, furono le informazioni che Mr. Gibson fornì a Molly nel giro di pochi minuti. Lei era seduta eretta sul sofà e aveva un aspetto molto grazioso con le guance rosse e gli occhi luminosi. Bene! Commentò quando suo padre smise di parlare. Bene cosa? Chiese l'uomo giocoso. Oh, beh, tutte queste cose. Ho aspettato tutto il giorno per chiederti ogni particolare. Che aspetto ha? Se mai potesse accadere a un ragazzo di 24 anni di crescere in statura, direi che mi è sembrato più alto. Per la verità, immagino che abbia solo un aspetto più robusto, più forte, più muscoloso. Oh, è cambiato? Chiese Molly, un po' turbato da quella descrizione. No, non cambiato, eppure non è lo stesso. Intanto è nero come una mora, ha preso un po' del colore dei neri e ha una barba bella e fluttuante come la coda della mia cavalla baia. La barba! Ma continua, papà! Parla come un tempo! Riconoscerei la sua voce tra 10.000. Non ho colto alcuna sonorità o tentotta, né questo, se è questo che intendi. Ne ha detto, Cesare e Pompeo si somigliano molto, specialmente Pompeo. Che è il solo esempio di lingua dei neri che io possa ricordare in questo istante. E di cui io non coglierò mai l'ironia, lamentò Mrs. Gibson, che era entrata nella stanza a conversazione iniziata e non compresa a cosa si facesse allusione. Molly era irrequieta. Voleva continuare a fare domande e a mantenere le risposte del padre su un piano definito e relativo ai fatti, e sapeva che quando sua moglie interveniva in un discorso, Mr. Gibson tendeva spesso a scoprire di doversene andare per occuparsi di qualche faccenda importante. Dimmi, come vanno le cose tra loro? Era una domanda che in generale Molly non poneva in presenza di Mrs. Gibson, perché lei e suo padre erano tacitamente concordi nel mantenere il silenzio su ciò che sapevano o che avevano osservato in merito alle tre persone che in quel momento costituivano la famiglia di Hamley Hall. Oh, ribatté Mr. Gibson, Roger sta evidentemente sistemando ogni cosa con i suoi modi decisi e tranquilli. Sistemando le cose? Perché? Che problema c'è? Chiese subito Mrs. Gibson. Lo squire e la nuora francese non vanno d'accordo, suppongo. Sono sempre così felice che Cinzia abbia agito con quella prontezza. Sarebbe stato molto imbarazzante per lei doversi mischiare in tutte queste complicazioni. Povero Roger, tornare a casa e trovarsi rimpiazzato da un bambino. Tu non eri in questa stanza, cara, mentre raccontava Molly le ragioni del ritorno di Roger. È stato proprio per far sì che al figlio di suo fratello fosse assegnato il posto che gli spetta, che gli appartiene di diritto. Così ora, vedendo che in parte questo risultato è dipeso dal suo intervento, egli è proporzionalmente felice e soddisfatto. Dunque, non ha sofferto particolarmente per il fatto che Cinzia abbia rotto il fidanzamento. Ora Mrs. Gibson poteva permettersi di chiamarlo fidanzamento. Non ho mai creduto che fosse capace di nutrire sentimenti profondi. Al contrario, sta molto male. Ne abbiamo parlato a lungo ieri. Sia Molly che Mrs. Gibson avrebbero voluto sapere qualcosa in più di quella conversazione, ma Mr. Gibson preferì non continuare su quell'argomento. Il solo elemento che rivelò era che Roger aveva insistito sul fatto di avere il diritto a un colloquio privato con Cinzia e, sapendo che al momento lei si trovava a Londra, aveva posticipato qualsiasi ulteriore spiegazione o rimostranza tramite lettera, preferendo attendere il suo ritorno. Molly continuò a porre domande su altri temi. E Mrs. Osborne Hamley, come sta? La presenza di Roger l'ha meravigliosamente rallegrata. Non penso di avere mai visto il suo sorriso prima, ma a volte a lui regala dei sorrisi dolcissimi. Evidentemente sono buoni amici, e quando parla con lui, lei perde il suo solito sguardo sbigottito. Sospetto sia stata colpevole del fatto che lo squire volesse farla tornare in Francia, ed è stata dura essere costretta a decidere se lasciare suo figlio o meno. L'idea che avrebbe dovuto arrivare a una risoluzione le venne in mente quando era completamente devastata dal dolore e dalla malattia e non aveva nessuno con cui consultarsi a proposito del proprio dovere fino a che non è arrivato Roger, nel quale lei ha una grande fiducia. È stato lui stesso a parlarmene brevemente. Sembra che tu abbia avuto un colloquio piuttosto lungo con lui, papà. Sì, stavo andando di buon passo a visitare il vecchio Abram quando lo squire mi ha chiamato dalla siepe. Mi ha raccontato la novità. E non è stato possibile resistere alla tentazione di tornare e pranzare insieme a loro. Oltretutto, dalle parole di Roger si ottengono grandi contenuti. Non ci ha voluto chissà quanto tempo per sapere tutto questo. Penso che verrà presto a trovarci, disse Mrs. Gibson a Molly, e allora vedremo quanto riusciremo a sapere. Credi che verrà, papà? Chiese Molly, più dubbiosa. Ricordava l'ultima volta che lui era stato in quella stessa stanza e le speranze con le quali era partito. E immaginava di poter vedere le tracce di questo pensiero nell'espressione con cui suo padre aveva reagito alla frase della moglie. Non so dirti, mia cara, fino a che non sarà del tutto convinto delle intenzioni di Cinzia, non sarà molto piacevole per lui venire a portare delle semplici visite di cortesia nella casa in cui l'ha conosciuta. È un tipo che fa sempre ciò che ritiene giusto, che sia gradevole oppure meno. Mrs. Gibson riuscì appena ad aspettare che il marito terminasse la frase prima di obiettare a una parte di essa. Convinto delle intenzioni di Cinzia, mi pare che lei le abbia espresse piuttosto chiaramente. Cosa vuole ancora? Non è ancora persuaso che la lettera non sia stata scritta in un impeto di sentimenti passeggeri. Io gli ho detto che era vero, sebbene non reputi mio dovere spiegargli le cause di quei sentimenti. Egli crede di poterla indurre a riprendere il loro rapporto. Io no. E gliel'ho detto, ma naturalmente lui ha bisogno di un pieno chiarimento che solo lei gli può dare. Povera Cinzia, la mia povera bambina, lamentò Mrs. Gibson. A che cosa si è esposta lasciandosi persuadere da quell'uomo? Gli occhi di Mr. Gibson balenarono fuoco, ma egli tenne le labbra ben chiuse e replicò solamente: Quell'uomo? Proprio! Quasi senza farsi sentire. Anche Molly era rimasta scoraggiata da un paio di frasi pronunciate da suo padre. Semplici visite di cortesia. Era così dunque, una semplice visita di cortesia. Di qualunque cosa si trattasse, quella visita avvenne prima che passassero molti giorni, che il giovasse avvertire Il giovane avvertisse nei confronti di Mrs. Gibson tutto l'imbarazzo della propria situazione, che in effetti soffrisse davvero per tutto il tempo, fin troppo evidente per Molly. Ma naturalmente Mrs. Gibson non si accorse di nulla nella gratificazione provata per il dovuto rispetto dimostratole da una persona il cui nome appariva già sui giornali che riportavano la notizia del suo ritorno, riguardo alla quale Lady Kemnore e la famiglia delle Torri si erano già informati. Molly, con il suo bell'abito bianco da convalescente, sedeva a leggere e a sognare. Mentre l'aria di giugno era così limpida e gioviale, la fioritura in giardino così generosa, gli alberi così ricchi di foglie, che leggere vicino alla finestra aperta era solo una finzione in quella stagione. Per di più, Mrs. Gibson continuava a interromperla con commenti a proposito del motivo del suo lavoro su un tessuto di lana pettinata. Era dopo pranzo, un orario ortodosso per far visita, quando Maria annunciò Mr. Roger Hamley. Molly balzò in piedi, poi rimase muta e timida al suo posto, mentre un uomo serio, abbronzato e con la barba entrava nella stanza. In lui ella dovette da principio ricercare il volto allegro di ragazzino che aveva visto solo 2 anni prima e che conosceva a memoria. Ma i mesi, nel clima in cui Roger si era ritrovato a viaggiare, fanno invecchiare come anni in regioni più temperate. Inoltre, la costante preoccupazione e l'ansia dovuta a un pericolo di vita quotidiano scavano sul volto le linee del carattere. Per di più, le circostanze che di recente lo avevano colpito sul piano personale non erano di una natura tale da renderlo né allegro né ridente. La sua voce, però, era la stessa. Quello fu il primo aspetto che Molly captò del suo vecchio amico, quando egli le si rivolse in tono molto più tenero di quello che impiegò per esprimere convenzionali formalità nei confronti della sua matrigna. Mi è dispiaciuto sentire quanto siate stata male. Avete un aspetto semplicemente delicato, lasciando che gli occhi indugiassero sul viso di lei per un esame colmo d'affetto. Molly si sentì arrossire completamente per la consapevolezza di quella sua attenzione. Per far qualcosa che vi mettesse fine, alzò il volto e gli mostrò i suoi begli occhi teneri e grigi, che egli non ricordava di aver mai notato prima. Ella gli sorrise, arrossendo ancora di più, e disse: Oh, ora sono quasi tornata forte come prima. Sarebbe un peccato essere malati mentre ogni cosa è nel culmine della sua bellezza estiva. Ho saputo quanto profondamente noi vi siamo. Io sono in debito con voi. Mio padre non riesce quasi a trovare le parole per elogiarvi. No, vi prego, protestò Molly con le lacrime che le salivano agli occhi suo malgrado. Egli sembrò comprenderla immediatamente e continuò come se si stesse rivolgendo a Mrs. Gibson. In verità, la mia piccola cognata non è mai stanca di parlare del Monsieur le Dottore, come chiama vostro marito. Non ho ancora avuto il piacere di fare la conoscenza di Mrs. Osborne Hamley, disse Mrs. Gibson, improvvisamente consapevole del dovere che ci si sarebbe potuti aspettare da lei, e devo pregarvi di portarle le mie scuse per la mia negligenza. Ma Molly è stata una tale preoccupazione, una tale angoscia per me, sapete. Infatti io la considero proprio come una figlia. Così non sono praticamente mai uscita, a parte l'essere andata alle Torri, forse dovrei dirlo. Ma quella è una specie di seconda casa per me. E poi avete capito che Mrs. Osborne Hamley stava pensando di tornare presto in Francia. Tuttavia è stata una grave negligenza. La piccola trappola preparata per ottenere informazioni su cosa stesse avvenendo all'interno della famiglia Hamley ebbe pieno successo. Roger le rispose in questo modo: Sono certo che Mrs. Osborne Hamley sarà molto lieta di incontrare qualunque amico della famiglia non appena sarà un po' più in forze. Io spero che non tornerà affatto in Francia. È orfana e confido che la convinceremo a rimanere con mio padre, ma al momento non è stato deciso nulla. Poi, come felice di aver superato la visita di cortesia, egli si alzò e si congedò. Quando fu alla porta, si voltò, avendo, pensava, un'altra parola da dire. Ma si dimenticò completamente di cosa si trattasse, perché colse lo sguardo intenso di Molly e la sua improvvisa confusione per essere stata sorpresa a guardarlo. Così lasciò la stanza in tutta fretta. Il povero Osborne aveva ragione, disse. Ha maturato una bellezza delicata e fragrante, proprio come prevedeva lui. O è il carattere ad aver modellato il suo viso? Beh, la prossima volta che varcherò questa soglia sarà per apprendere quale sarà il mio destino. Mr. Gibson aveva parlato alla moglie del desiderio di Roger di avere un colloquio privato con Cinzia e la sua intenzione era stata che lei ripetesse a sua figlia quanto le era stato riferito. Egli non ne vedeva esattamente la necessità, è vero, ma pensava fosse opportuno che la giovane conoscesse tutta la verità della condizione in cui si trovava. e comunicò quell'idea a sua moglie. Lei però prese in mano la questione e, sebbene all'apparenza convenisse con Mr. Gibson, non fece mai menzione a Cinzia della faccenda. Tutto ciò che le scrisse fu: il tuo vecchio ammiratore, Roger Hamley, è tornato a casa in tutta fretta in conseguenza della morte in attesa del povero caro Osborne. Deve essere rimasto piuttosto sorpreso nel trovare la vedova e il suo figlioletto sistemati a Hamley Hall. L'altro giorno è venuto a trovarci e si è reso piuttosto simpatico, per quanto i suoi modi non siano migliorati grazie alla compagnia con cui si è intrattenuto nel corso dei suoi viaggi. Tuttavia, io prevedo che sarà considerato la celebrità del giorno e forse quella stessa ruvidità che stride con il mio senso della raffinatezza potrà persino essere ammirata in un esploratore scientifico che ha visitato più numerosi luoghi desertici, ha mangiato il cibo più straordinario di qualunque inglese della nostra epoca. Immagino che abbia rinunciato a qualsiasi possibilità di ereditare la tenuta, perché ho sentito dire che parla di tornare in Africa e di diventare un vagabondo di professione. Il tuo nome non è stato fatto, ma credo che abbia chiesto di te a Mr. Gibson. Ecco, si disse, mentre piegava e indirizzava questa lettera, questo non può turbarla o farla sentire a disagio. E poi è tutta la verità, o ci si avvicina molto. Naturalmente lui vorrà vederla quando tornerà, ma per allora spero davvero che Mr. Henderson le abbia fatto la proposta un'altra volta e che quella questione sia ormai chiusa. Cinzia però tornò a Hollingford un martedì mattina e, in risposta alle ansiose domande della madre sull'argomento, si limitò a comunicare che Mr. Henderson non le aveva fatto una nuova offerta. Perché avrebbe dovuto? Lei l'aveva già respinto una volta senza rendergli note le ragioni di quel rifiuto, o almeno una delle ragioni. Cinzia non sapeva se lo avrebbe accettato se non ci fosse stato al mondo uno come Roger Hamley. No, lo zio e la zia Kirkpatrick non avevano mai saputo nulla della proposta di Roger e nemmeno le cugine. Lei aveva sempre dichiarato la volontà di mantenerla segreta e non aveva fatto parola con nessuno nonostante il comportamento di altre persone. Dietro questa posa leggera e spensierata si celavano altri sentimenti, ma Mrs. Gibson non era tipo da indagare oltre la superficie. Si era messa in testa che Mr. Henderson avrebbe sposato Cinzia agli inizi della loro conoscenza e sapere, prima di tutto, che a lui era venuta la stessa idea e che il legame di Roger e Cinzia, con le sue conseguenze, aveva costituito un ostacolo, e in secondo luogo che la stessa Cinzia, nonostante tutte le possibilità di avvicinamento di cui aveva recentemente goduto, aveva fallito nello stimolare una ripetizione della proposta, era, come disse Mrs. Gibson, abbastanza da far perdere la pazienza a un santo. Per tutto il resto della giornata, ella alluse a Cinzia come una figlia deludente e ingrata. Molly non riusciva a capire il perché e si dispiacque per Cinzia, finché quest'ultima replicò amaramente: non importa, Molly, la mamma è semplicemente irritata perché mister... perché non sono tornata da signorina fidanzata. Sì, e sono sicura che avresti potuto. Ecco l'ingratitudine. Non sono così ingiusta da desiderare che tu faccia ciò che non puoi, protestò Mrs. Gibson. Ma dov'è l'ingratitudine, mamma? Sono molto stanca e forse questo mi rende lenta di comprendonio, però non riesco a capire dove stia l'ingratitudine. Cinzia parlò con molta spossatezza, appoggiando la testa all'indietro sui cuscini del divano, come se non si curasse poi molto di ricevere una risposta. Ma come? Non vedi che stiamo facendo tutto quello che possiamo per te? Ti facciamo vestire bene, ti mandiamo a Londra. E quando potresti sollevarci da tutte le spese che ne derivano? Non lo fai. No, Cinzia, parlo io, intervenne Molly, tutta rossa per l'indignazione, allontanando la mano di Cinzia che voleva frenarla. Sono sicura che papà non pensa, non fa caso alle spese che affronta per le sue figlie. E io so benissimo che non desidera che ci sposiamo, a meno che... balbettò e si interruppe. A meno che, le fece eco Mrs. Gibson, quasi per prenderla in giro, a meno che non amiamo qualcuno davvero di tutto cuore, rispose Molly in tono basso ma fermo. Bene, dopo questa tirata davvero molto indelicata, lo devo dire, io ho chiuso. Non aiuterò né ostacolerò alcuna storia d'amore di voi due signorine. Ai miei tempi eravamo liete di ricevere consiglio dei più anziani. E lasciò la stanza per mettere in pratica un'idea che le era appena balzata alla mente: scrivere una lettera confidenziale a Mrs. Kirkpatrick, riferendole la propria versione dello sfortunato impiccio di Cinzia, del suo delicato senso dell'onore e per alludere alla sua completa indifferenza a tutta la parte maschile del mondo, escludendo abilmente Mr. Henderson dalla categoria. Oh, povera me, fece Molly, lasciandosi cadere su una sedia con un sospiro di sollievo quando Mrs. Gibson lasciò la stanza. Come sono diventata astiosa da quando mi sono ammalata, ma non sopporto di sentirla dire che papà ti rimprovera qualcosa. Sono certa che lui non lo fa, Molly. Non hai bisogno di difenderlo, per quanto mi riguarda. Ma mi dispiace che la mamma mi consideri ancora un impiccio, come gli annunci del Times definiscono sempre noi figli sfortunati. Ma io le sono stata ad intralcio per tutta la vita. Sto veramente per cadere in disperazione riguardo a tutto, Molly. Tenterò la sorte in Russia. Ho sentito di una posizione da istitutrice inglese a Mosca in una famiglia che possiede terreni per intere province e servi della gleba a centinaia. Ho aspettato a scrivere la mia lettera finché non fossi tornata a casa. Una volta lì, sarò fuori dai piedi come se fossi sposata. Oh, povera me. Viaggiare per tutta la notte non fa bene allo spirito. Come sta, Mr. Preston? Oh, ha preso possesso di Kemnor Grange, 3 miglia lontano da qui, e non partecipa più ai tè di Hollingford ormai. L'ho visto una volta per la strada, ma ci sarebbe da domandarsi chi dei due abbia tentato più risolutamente di non incrociare l'altro. Non hai ancora detto nulla riguardo a Roger? No, non sapevo se ti interessasse sapere. Sembra molto più vecchio, proprio un uomo forte adulto. E papà dice che è molto più serio. Chiedimi quello che vuoi se ti va di sapere, ma l'ho visto una volta sola. Speravo che ormai avesse lasciato il circondario. La mamma ha detto che sarebbe ripartito. Non so dire, replicò Molly. Immagino tu sappia, continuò esitando un poco prima di parlare, che desidera vederti. No, non l'ho mai saputo. Vorrei che si fosse accontentato della mia lettera. Era la più risoluta che sia riuscita a scrivere. Se dico che non voglio incontrarlo, mi domando se sarà la sua o la mia volontà essere più forte. La sua, disse Molly, ma è necessario che tu lo incontri, glielo devi. Non sarà mai soddisfatto se non accadrà. E se mi convincerà a riprendere il fidanzamento, io non farei altro che romperlo di nuovo. Di certo non ti si può convincere se la tua mente è risoluta, ma forse non lo è del tutto, Cinzia, chiese Molly con il volto che tradiva un po' di malinconica ansia. Sono completamente sicura. Andrò a fare da insegnante alle ragazze russe. Non mi sposerò mai con nessuno. Non parli seriamente, Cinzia. Eppure è una cosa molto seria. Ma Cinzia si lasciò andare a uno dei suoi stati d'animo incontrollati. Al momento non fu più possibile cavarle un pensiero che fosse ragionevole o sensato.